voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Il Made in Italy tra artigianato e arte nel mondo, di Anna Marino. Seconda puntata della serie speciale di Voci di Impresa in collaborazione con Sharing Italy, l'iniziativa di Intesa San Paolo che ha riunito a Torino 150 imprese sui temi dello sviluppo economico e imprenditoriale. Le due storie che vi raccontiamo oggi arrivano dalla Toscana e dalla Lombardia, dai distretti delle lavorazioni artigianali e artistiche di marmo e legno. La prima è quella di Ernò, azienda di Querceta in Versilia, che si occupa di estrazione e lavorazione del marmo sin dai primi decenni dell'Ottocento, in quella stessa zona delle montagne toscane dove già Michelangelo si approvvigionava. Un'azienda legata al mondo dell'architettura, dell'arte e del design, come ci racconta Paolo Carli, seconda generazione, presidente e amministratore delegato. L'impresa è indubbiamente nata quasi 200 anni fa, si parla di Enro, 1821. La grande storia del marmo passa attraverso questa impresa, in un territorio importante vicino a Carrara, quindi produzione di marmi già dall'epoca romana, quindi attività estrattive, e questo Enro era un generale di Napoleone, inviato nel territorio apoversilese per acquisire e controllare marmi che sarebbero andati poi a essere utilizzati per i palazzi del Rinascimento parigino, e capì che successivamente, dopo il suo contributo militare al servizio di Napoleone, capì che poteva farne una sua propria impresa e decise di comprare una montagna, che era poi la montagna che fu scoperta da Michelangelo all'incirca nel 1517, quindi è una storia bellissima, e acquisendo questa intera montagna che anche oggi fa parte del nostro patrimonio dell'impresa, poi creò questa grande industria che poi ha fatto veramente la storia internazionale, perché ha portato poi la tecnologia, ha portato gli investimenti sul territorio, quindi ha portato poi una grande capacità imprenditoriale. Io nasco da una impresa familiare, quella di mio nonno e di mio padre, e quindi sono nato un po' nel marmo. Durante gli anni della crisi, gli investimenti si sono concentrati sullo sviluppo dell'export e sulle tecnologie. Nella serie di molte crisi che abbiamo dovuto subire, su cui ci siamo anche poi rinnovati continuamente, la crisi del 2008-2009 è stata molto profonda, molto importante, ha lasciato tracce e segni ben evidenti in tutta la nostra economia nazionale. È stato un grande sacrificio, una grande sfida, perché noi abbiamo perso circa un 40% di fatturato, 30% di fatturato che veniva principalmente dalla distribuzione sul territorio nazionale. È stata una decisione molto molto severa, però importante, perché avevamo capito che perdevamo redditività, perdevamo risorsa finanziaria, e quindi abbiamo deciso proprio di chiudere 4 centri di distribuzione, e da lì poi ci siamo ulteriormente concentrati molto di più nell'export, quindi tutti gli investimenti sono stati poi girati verso, con risorse umane, con investimenti su nuove tecnologie. L'azienda si sta consolidando su un fatturato che oscilla intorno ai 45 milioni di euro. Noi esportiamo l'85%, quindi abbiamo una grande cultura e conoscenza dei mercati esteri. La capacità di sapersi innovare in continuazione, anche sotto il punto di vista della presentazione, della comunicazione, ci porta sicuramente, il futuro è collegato anche a queste cose. Naturalmente sempre con una produzione altamente qualificata. Devo dire che unita alle tecnologie noi abbiamo dei sapienti artigiani, scalpellini, che sanno poi veramente quello che le macchine danno fuori, devono essere poi tutte riprese veramente a mano, quindi c'è ancora il saper fare delle mani, la manualità, che è importante, quindi è l'unione di queste due possibilità che ci permette poi di esprimerci a livello competitivo. Secondo Carli, la forza dell'azienda sono i giovani. L'azienda si sta consolidando su un fatturato che oscilla intorno ai 45 milioni di euro. Chiaramente ogni anno abbiamo fatto delle crescite, lo abbiamo registrato anche nel corso del 2016 che è appena terminato. Il 2017 si presenta, direi, sostanzialmente con la stessa base di fatturato, quindi è positivo. È uno staff veramente importante, molto bello, di giovani. Ho assunto tantissimi giovani ultimamente, credo molto nella loro energia, e quindi questa è un po' la forza dell'azienda. Anche la seconda azienda di cui vi parliamo oggi ha una lunga storia. Realizza arredi in legno da quasi 100 anni. Nasce nei primi decenni del Novecento a Cantù, nel cuore della Brianza, dove Nino Romano fonda una piccola bottega artigianale a conduzione familiare e specializzata nella produzione di arredi in legno massello dallo stile classico. A guerra appena conclusa, fa il suo ingresso nel laboratorio Mario Riva, che prosegue l'attività del suocero insieme a pochi operai. E dà un nome e una data a quella che diventerà l'azienda di famiglia. Riva 1920. Ci racconta agli albori il figlio Maurizio Riva, terza generazione. È nata nel 1920 da mio nonno, noi siamo la terza generazione, adesso c'è una quarta generazione. Attualmente l'azienda è di Maurizio Davide e Anna Riva, abbiamo un centinaio di dipendenti, diamo tanto lavoro al mondo esterno, soprattutto tutto made in Italy. Facciamo mobili, ma mobili che devo dire belli da dentro a fuori, usando per esempio le briccole oppure legni di 48.000 anni. Siamo a 17 milioni di fatturato, è una nicchia di mercato molto, molto particolare, quasi pezzi uno di uno. Anche se non ha visto particolari impatti per la crisi degli scorsi anni, la scelta è stata quella di puntare sul design con il contributo di architetti. Noi siamo sempre stati in crescita anche nel 2008, perché il prodotto in definitiva è un prodotto un po' nostro, dove legni di forestazione, finitori con oli naturali, basso impatto ambientale, legni di 48.000 anni come dicevo prima, le briccole che gli abbiamo dato la terza vita, designer famosi da Terry Duan, Mario Botta, Pininfarina, Antonio Citterio, Chipperfield, tantissimi, ma anche i giovani. È un'azienda che non fa un grosso fatturato, però è un'azienda che non ha mai perso fatturato. Ecco, l'anno scorso abbiamo fatto più 14%, quindi è una cosa buona. Investiamo tantissimo, tantissimo. Abbiamo per esempio questo museo, abbiamo tre piccole fabbriche, il nostro cliente dorme da noi in camere uso foresteria, quindi abbiamo studiato un po' l'azienda. Il nostro cliente arriva da noi, dorme da noi, si mangia al museo con una cuoca, una semplice cuoca, però fa da mangiare molto bene, quindi il cliente ce lo teniamo stretto, non andiamo in un ristorante dove ci perdiamo via, e mangiamo al nostro museo, perché è dei fratelli in Riva, dove quando facciamo le serate abbiamo una media di 570-580 persone che non pagano niente, vengono, e dove serate, dove non so, Mario Botta, Pininfarina, Carlo Cracco, Davide Oldani, e perché il territorio è molto povero di queste cose, non esistono. Allora il fatto di trovarsi, sedersi dove tra persone che non ci si incontra, vuol dire conoscersi, in mezzo in un museo dove vi sono quasi 5.000 reperti dal 1750. Mentre produciamo facciamo anche cultura d'impresa, che secondo me porta a conoscenza, a business. Secondo Maurizio Riva è importante puntare su giovani e dare grande attenzione al territorio e al passaggio di competenze tra le generazioni. Andando in diverse università a parlare ai giovani, mi sono inventato un angolino bellissimo dove abbiamo finalmente alloccato il tavolo Pangea che c'era in Expo. Quindi era nostro il tavolo, ce lo siamo portati a casa in questo grande locale che diventa uno spazio dove vi sono addirittura 60 aziende, delle più importanti in Italia, e stiamo raccogliendo i legni del mondo, che sono più di 63.000, il mondo arboreo sono più di 63.000 tipi di legno. E questo sarà un punto focale per i giovani designer, i giovani architetti, dove se vengono e si iscrivono da settembre, già però lo facciamo, si viene al mattino, una giornata tosta, si vanno a vedere le nostre tre fabbriche e nell'arco di un chilometro si va a visitare il fabbro, il marmista, il tornitore e il tappezziere. E qui in questa giornata questi ragazzi si devono rendere conto che prendere in mano la matita bisogna avere anche un po' un minimo di base. Adesso siamo al Salone del Mobile, come 1970 aziende mi sembra che siamo, e devo dire la verità, noi addirittura abbiamo stampato quest'anno 50.000 copie di 80 pagine, 40 in inglese, 40 in italiano, perché bisogna comunicare, solo la comunicazione, ecco. Però secondo me io sono uno nel produrre con grande cuore, produrre per tramandare. Prossima settimana, nuovo appuntamento per raccontare altre storie di azienda di Sharing Italy. Questa e altre storie, in anteprima, inedite o in versione estesa, ma anche idee e novità per l'impresa, potete trovarle sul sito radio24.it.